Il terzo anello, ad alta voce, I mandarini, di Simone de Beauvoir, traduzione di Franco Lucentini. «Ecco un soggiorno che comincia piuttosto male», disse Lewis guardandomi con aria inquieta. «Ma no», dissi, «non c'è stato niente di così grave. Lasciate che m'abitui e tutto andrà benissimo». «Vorrei tanto che tutto andasse bene», disse Lewis. «Mi sembra che potremmo passare giorni piacevoli insieme. Quando non piangete mi intendo così bene con voi». Mi interrogava con lo sguardo. C'era della malafede nel suo ottimismo. C'era una volontà di non tenere nel minimo conto i miei propri sentimenti. Tuttavia la sua ansia era sincera. Il pensiero di addolorarmi lo desolava. «Sono sicura che passeremo una bella estate», dissi. Una bella estate. Certo, le somigliava. Ogni mattina attraversavamo in barca lo stagno dalle erbe gelatinose. Scalavamo le dune di sabbia bruciante. A destra la spiaggia deserta si stendeva all'infinito. A sinistra la sabbia moriva ai piedi degli altiforni impennacchiati di fiamme. Nuotavamo, ci abbronzavamo al sole guardando gli uccelli bianchi dalle lunghe gambe che beccavano tra la sabbia e tornavamo verso casa, carichi come indiani di sterpagli e rami morti. Passavo ore a leggere sul prato tra scoiattoli grigi, ghiandaie azzurre, farfalle e grandi uccelli bruni dal petto rosso. Dalla casa veniva il ticchettio della macchina da scrivere di Lewis. Cercai l'indomani mattina di fortificarmi nella severità. Guardando Lewis che innaffiava il prato con aria compresa, mi dissi: «È un uomo come gli altri. Perché mi ostino a considerarlo unico?» Sentii arrivare l'automobile della posta. «Ann!» gridò Lewis. «Venite a vedere! Ho acchiappato un arcobaleno!» Continuava a innaffiare il prato e un arcobaleno danzava nel getto d'acqua. «Venite, presto!» Riconoscevo la complicità insistente di quella voce, quel viso allegro, un viso che non somigliava a nessun altro. Era Lewis, era ben lui. Aveva cessato d'amarmi, ma era restato lo stesso. Perché avevo improvvisamente pensato male di lui? Continuavo dunque ad amarlo, ma non era una situazione tranquilla. Bastava un'inflessione della sua voce perché di slancio lo ritrovassi tutto intero. Un minuto più tardi l'avevo perduto di nuovo. Quando andò a passare una giornata a Chicago alla fine della settimana, mi sentii piuttosto sollevata. 24 ore di solitudine sarebbero state un riposo. Mi sedetti sul prato, presi dalla borsa l'ultima lettera di Robert. Mi dava particolari sul processo del Madagascar. Henri aveva scritto un articolo che sarebbe uscito nel prossimo numero di Vigilance, ma non avrebbe servito a molto. Per agire sull'opinione pubblica ci sarebbe voluto un quotidiano o un settimanale a grande tiratura. Ripiegai la lettera. Seguì con gli occhi un aeroplano che passava alto nel cielo. Ne passavano sempre. Avrebbero potuto portarmi fino a Parigi. Ma a che scopo? Mi stirai. Che fare? Non avevo assolutamente niente da fare. Restai piantata lì, immobile, per un momento che mi parve lunghissimo. Ed un tratto fui presa dal panico. Come mai ora la sua assenza era divenuta questo vuoto divorante? Un vuoto che inghiottiva tutto. Solo contava quell'uomo che attendevo e che non sapevo neppure chi fosse. Non sapevo chi fossi io stessa. Andai in giro per il giardino, su e giù per la casa. Chiamai: «Lewis, tornate, aiutatemi!» Inghiottii whisky e benzedrina. Invano. Sempre quel vuoto insopportabile. Mi sedetti accanto alla grande vetrata, a spiare. Erano circa le 2 quando sentii il suo passo sulla ghiaia. Mi slanciai. Aveva le braccia cariche di pacchi, libri, dischi, tè cinese, una bottiglia di Chianti. Si sarebbero detti regali. Si sarebbe detto che fosse giorno di festa. Gli presi la bottiglia dalle mani. «Del Chianti! Che buona idea! Vi siete divertito? Avete vinto al poker? Cosa volete mangiare? Una bistecca? Del pollo?» «Ho già fatto colazione», disse Lewis. Posò i pacchi, si tolse le scarpe, infilò le pantofole. Andò a sedersi nella poltrona accanto alla grande vetrata. E io m'accomodai sul divano. «Raccontatemi tutto». «Oh, non c'è niente di straordinario da raccontare». L'avevo accolto con la goffaggine abituale delle donne che non sono più amate. Troppo calore, troppe domande, troppo zelo. Raccontava, ma a fior di labbra. Se chiedevo qualche particolare, prendeva subito un'aria infastidita. Alla fine prese un giornale e io aprii un libro che feci finta di leggere. Non avevo fatto colazione, ma non potevo mangiare. Cosa m'aspettavo, insomma? Mi chiesi. Avevo rinunciato alla speranza di ritrovare mai più il passato. Allora, cosa m'ero aspettata? Un'amicizia capace di sostituire l'amore perduto? Ma non sarebbe gran cosa un amore se qualcosa potesse prenderne il posto. No, era una cosa definitiva, come la morte. Di nuovo pensai, se almeno mi restasse tra le braccia un cadavere. Avrei voluto avvicinarmigli, posargli una mano sulla spalla, chiedergli come ha potuto volatilizzarsi così un amore come il nostro. Spiegatemi. Ma m'avrebbe risposto, non c'è niente da spiegare. Non vorreste fare un giro sulla spiaggia? Proposi. No, non ne ho affatto voglia, disse senza alzare gli occhi. Non erano passate che 2 ore. Avevo ancora tutta la fine del pomeriggio da vivere. E poi la sera, la notte, un altro giorno, altri giorni ancora. Come passarli? Riempii un bicchiere. Il sole brillava e tuttavia la luce non aveva abbastanza vigore per tenere gli oggetti a distanza. Le cose mi schiacciavano. I caratteri del libro si incollavano ai miei occhi e m'accecavano. Impossibile leggere. Cercai di pensare a Parigi, a Robert, al passato, all'avvenire. Impossibile. Ero chiusa in quell'istante, legata, con una pietra al collo. Il mio peso mi schiacciava. Il mio fiato avvelenava l'aria. Era me stessa che avrei voluto fuggire. E appunto questo non mi sarebbe stato dato mai più. Rinunciare a fare all'amore, vestirmi da vecchia signora, avere i capelli bianchi, avrei acconsentito a tutto. Ma non lasciarmi mai più. Che tortura! Ebbi un'illuminazione improvvisa. Non è più lo stesso. L'uomo che m'amava era scomparso, e Lewis con lui. Come avevo potuto ingannarmi? Cosa ne era accaduto? E chi m'aveva condannata a questa funebre intimità con un impostore? Udii d'un tratto l'eco d'un ricordo detestato. Uno sbadiglio. «Ah, non sbadigliate!» dissi scoppiando in lagrime. «Ah!» disse, «non piangete!» «Ah, siete troppo ingiusto!» dissi. M'asciugai gli occhi. «Siete stato voi a invitarmi qui. Mi diceste che eravate contento di passare l'estate con me. Allora non dovreste prendere queste arie ostili!» «Non sono ostile! Quando cominciate a piangere mi vien voglia d'andarmene, ecco tutto!» «Non ne avete il diritto!» dissi. «So benissimo che non m'amate. Non vi domando più niente che somigli all'amore. Faccio del mio meglio perché restiamo in buoni rapporti.» «Sì, siete gentilissima», disse Lewis, «ma è proprio per questo che diffido di voi. La vostra gentilezza è la trappola più pericolosa.» M'alzai, feci qualche passo per cercare di calmarmi. «Non posso essere scortese apposta», dissi. «Se è così, del resto, non vedo che una soluzione. Andarmene.» «Ma io non desidero che ve ne andiate», disse Lewis. Alzò le spalle. «Neanche per me le cose sono facili.» «Lo so», dissi. Decisamente non potevo prendermela con lui. Aveva desiderato di tenermi per sempre con sé e io avevo rifiutato. Gli andai vicino. Per una volta che avevamo cominciato a parlare, volevo profittare della possibilità. «Avete torto a diffidare di me», dissi. «C'è una cosa che dovete sapere. Non vi serbo rancore, né ve ne ho mai serbato, perché non mi amate più. In quel che io penso di voi, non c'è niente che possa esservi spiacevole.» Mi interruppi. Lewis mi guardava con un po' di inquietudine. Aveva paura delle parole. Anch'io avevo paura. Aggiunsi soltanto, «Siamo amici, Lewis.» «Certo.» Mi cinse col braccio e mormorò, «Mi dispiace d'essere stato così duro. Mi dispiace d'essere stata così sciocca.» «Sì, che sciocca.» Da allora fummo meno distanti. Quando passeggiavamo sulla spiaggia, quando ci sdraiavamo al sole o la sera ascoltando dischi, Lewis mi parlava con abbandono. La nostra intesa risuscitava. Non temeva più d'abbracciarmi, di baciarmi. Facemmo perfino all'amore, 2 o 3 volte. I giorni passavano senza troppa pena, ma presto soffersi d'un nuovo male. Ecco che tra 1 mese, tra 15 giorni, tra 10 giorni, sarei partita. Sarei mai tornata? Avrei mai rivisto Lewis? Neppure lui probabilmente conosceva la risposta. Prevedeva male il proprio cuore. Decidemmo di passare l'ultima settimana a Chicago. Com'è triste questa casa, vero? Disse Lewis entrando. Sì, una camera mortuaria. Una camera mortuaria fuori uso e piena di spettri. Tutta la gente che non vedrò più. Laggiù non verranno. La casa di Parker mi piace, ma è una casa molto ragionevole. Qui c'era una magia, dissi. Una magia? Non so, ma almeno veniva gente, succedevano cose. Nel buio a occhi aperti, evocava a voce alta i giorni e le notti passati in quella camera. E il mio cuore si stringeva. La sua vita m'era parsa poetica, ma per lui, che esistenza austera. Quante settimane, quanti mesi senza un incontro, senza un'avventura, senza una presenza. Quanto aveva dovuto desiderare una donna che fosse interamente sua. Per un istante aveva creduto di sfuggire alla solitudine. Aveva osato augurarsi qualcos'altro che la sicurezza ed era stato deluso. Aveva sofferto, s'era ripreso. Mi passai la mano sul viso. Ormai i miei occhi restavano asciutti. D'improvviso accese la luce. Mi sorrise. Ann, non avete passato un'estate troppo cattiva? Esitai. Non è stata la migliore della mia vita. Lo so, disse. Lo so. E mi rincresce di tante cose. Voi qualche volta avete creduto che mi sentissi superiore o ostile. Non era affatto vero. Ma in certi momenti ho come un nodo nel petto. Lascerei morire tutti e me stesso, piuttosto che fare un gesto. Lo so anch'io, dissi. Credo che venga da molto lontano. Deve venire dal fatto che avete avuto una giovinezza troppo dura e probabilmente anche dalla vostra infanzia. Ah, non vorrete psicanalizzarmi, disse ridendo, ma già sulla difensiva. No, non abbiate paura. Ma mi ricordo di quando 2 anni fa, al Club d'Elisa, io volevo rendervi il vostro anello e partire per New York. Voi poi mi diceste che non avreste potuto strapparvi una parola. Ho detto questo? Che memoria avete? Sì, ho buona memoria, dissi. Non è una cosa che aiuti. Non vi ricordate che quella sera facemmo all'amore senza una parola? Che voi avevate l'aria quasi ostile? E che quando vi chiesi se aveste per me almeno dell'amicizia, mi rispondeste... Dell'amicizia, ma io vi amo! Avevo imitato la sua voce brusca e lui scoppiò a ridere. Pare assurdo. Lo diceste, e su questo tono. Con gli occhi volti al soffitto, disse in tono leggero. Forse vamo ancora. Qualche settimana prima mi sarei aggrappata avidamente a quella frase. Avrei tentato di farne germogliare una speranza. Ma ora restò senza eco. Era naturale che Lewis si interrogasse sui propri stati d'animo. E si può sempre giocare sulle parole. In ogni modo, la nostra storia era finita e lui lo sapeva, come me. Durante gli ultimi giorni non parlammo né del passato, né dell'avvenire, né dei nostri sentimenti. Lewis era là e io ero con lui. Questo bastava. Poiché non chiedevamo niente, niente ci era rifiutato. Avremmo potuto crederci felici. Forse lo eravamo. La sera della mia partenza dissi: «Lewis, non so se smetterò d'amarvi, ma so che per tutta la mia vita sarete nel mio cuore». Mi strinse a sé. «E voi nel mio, per tutta la vita». Ci saremmo mai rivisti. Non volevo più interrogarmi. Lewis m'accompagnò all'aeroporto, mi lasciò davanti all'ingresso con un bacio rapido e io feci il vuoto in me. Giusto prima che salissi nell'aereo, un impiegato mi consegnò una scatola di cartone in cui, sotto un gran foglio di carta di seta, riposava un'enorme orchidea. Quando arrivai a Parigi non era ancora appassita. Thank you. Un'ape ronzava intorno al portacenere. Henri alzò la testa, respirò l'odore dolciastro dei glicini, poi fece scivolare di nuovo la mano sul foglio. Finì di ricopiare la pagina piena di cancellature. La testa di Nadine apparve a una finestra tra due persiane azzurre. «Che aria studiosa! Sembri uno scolaro intento ai compiti delle vacanze!» Henri sorrise. Si sentiva una buona coscienza da scolaro, una coscienza felice. «Maria è sveglia?» chiese. «Sì, ora scendiamo», disse Nadine. Mise da parte le sue carte. Mezzogiorno. Era tempo di andare se voleva evitare Charlie e Mericot. Questi venivano a sollecitare nuovamente Dubreuil per quel settimanale e lui era stanco di ripetere «non voglio mischiarmici». «Eccoci», disse Nadine. Teneva con una mano il sacco delle provviste e con l'altra una cosa di cui era molto fiera. Una cosa di mezzo tra una valigia e una culla. «Attento, non scuoterla!» «Filiamo presto», disse Henri. Nadine si mise al volante con aria fiera. Fermò la macchina in riva allo stagno. «È davvero un buon posto. A parte i giorni di festa non c'è mai nessuno. Si starà bene nell'acqua», disse Henri. Nadine s'accertò che Maria fosse bene installata sul sedile, poi si spogliò. Sotto la veste di tela portava un bikini verde, ridottissimo. Aveva i seni giovani come una volta, le gambe meno pesanti. Corsero verso lo stagno. Nadine, nuotando, teneva la testa levata con maestà fuori dell'acqua. Si sarebbe detto che la portasse su un vassoio. A Henri piaceva molto quel viso. «Tengo a lei», si disse. «E ci tengo anche molto. Perché non è amore vero? Completo?» C'era qualcosa in lei che lo metteva a disagio. La sua diffidenza, i suoi rancori, la sua malafede, la solitudine ostile nella quale si impuntava. Forse se l'avesse amata di più, lei sarebbe diventata più amabile, più aperta, più libera. Ma era un circolo vizioso. Né all'amore si comanda, né alla fiducia. Nessuno dei due poteva fare il primo passo. Nuotarono a lungo e si stesero al sole. Nadine tirò dalla borsa i panini imbottiti. Henri ne prese uno. «Sai», disse dopo un po', «ho ripensato a quel che m'hai raccontato ieri a proposito di Césénac. Vincent è sicuro?» «Assolutamente sicuro», disse Nadine. «Ci ha messo un anno, ma ha finito per ritrovare dei testimoni e per farli parlare. Césénac si metteva in contatto con ebrei per fargli passare il confine e poi li consegnava ai tedeschi. Era proprio lui». «Ma perché?» disse Henri. «Per soldi, suppongo», disse Nadine. «Nessuno lo sospettava, ma doveva già drogarsi». «E perché si drogava?» «Di questo non ne so niente», disse Nadine. «Dov'è adesso?» «Vincent vorrebbe davvero saperlo. Lo cacciò via l'anno scorso quando seppe che lavorava per la polizia e poi ha perduto le sue tracce. Ma lo ritroverà». Henri morse il suo panino. Non s'augurava affatto che ritrovassero Césénac. Dubreuil gli aveva assicurato che in caso di bisogno avrebbe giurato d'aver conosciuto benissimo Mercier e questa testimonianza sarebbe stata decisiva, ma era sempre meglio che quella storia non tornasse più a galla. Nuotarono ancora un po', s'asciugarono, si rivestirono. Nadine riprese il volante. «Spero che saranno partiti», disse Henri quando la macchina si fermò davanti al cancello. «Vado a vedere», disse Nadine. Maria dormiva. Nadine mise l'orecchio alla porta dello studio. La socchiuse. «Sei solo?» «Sì, entrate, entrate», gridò Dubreuil. «Salgo a mettere a letto la bambina», disse Nadine. Henri entrò nell'ufficio e sorrise. «Peccato che non siate venuto con noi. Si stava bene nell'acqua». «Verrò uno di questi giorni», disse Dubreuil. Prese un foglio sulla scrivania. «Ho una commissione per voi. C'è un certo Jean Patureau, il fratello dell'avvocato che conoscete, che ha telefonato e lasciato detto che lo richiamiate d'urgenza. Suo fratello gli ha mandato dal Madagascar delle informazioni che vuole comunicarvi». «Telefono subito», disse Henri avviandosi al telefono. Il tizio all'altro capo del filo era pieno di importanza e di timidezza. Pareva che avesse ricevuto dall'aldilà un messaggio imperioso da trasmettere subito a ogni costo al suo destinatario. «Mio fratello mi scrive, nessuno fa niente, ma son certo che Henri Perron farà qualche cosa», disse con pompa. E Henri pensò, «dovrò far l'articolo, per forza». Dispose le proprie carte davanti a sé. Il fonografo suonava il quartetto di Frank. Nadine ascoltava seduta sul davanzale della finestra aperta. Le api ronzavano intorno al glicine. Un carro a buoi passò sulla strada con un rumore antico. «Che pace», si disse Henri. «Perché volevano costringerlo a occuparsi di quel che accadeva a Tananarive? Io vivo qui, e qui stiamo in pace», pensò. Guardò Nadine. Aveva un'aria raccolta che non le era abituale. Bisogna che la renda felice, si disse Henri. Questo circolo vizioso deve potersi spezzare. Render felice qualcuno. Ecco una cosa concreta, una cosa solida, che vi assorbirà sempre abbastanza se prendete la cosa a cuore. Occuparsi di Nadine, allevare Maria, scrivere libri. Non era precisamente la vita che s'era augurato una volta. Una volta credeva che la felicità fosse una maniera di possedere il mondo, mentre ora gli pareva piuttosto un modo di proteggersi contro se stesso. Era molto, tuttavia, sentire questa musica, guardare la casa, il tiglio, i fogli manoscritti sul tavolo, dicendosi: «Sono felice». Valentina Carnelutti ha letto I mandarini di Simone de Beauvoir,